Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bovin. Parigi, angolo di una strada, primi anni 50. Un gruppo di ragazzini in piedi guardano nella stessa direzione, aspettano. La strada è vuota. Samuel Beckett si avvicina e gli chiede cosa stiano facendo. On attend Godot, è la risposta. Stiamo aspettando Godot. Roger Godot era il più vecchio e lento corridore della corsa e sarebbe, secondo alcuni, all'origine del più famoso, più discusso e più atteso personaggio di Beckett. Il suo Godot, che arrivi o meno, dice qualcosa circa la solidarietà e la compassione che proviamo e la fede che riponiamo nell'ultimo in classifica. Max Leonard, Lanterne Rouge. E l'attesa è finita anche per un nuovo episodio di Radio Bidon, il nostro approfondimento sul Tour de France che ci ha fatto attendere veramente tanto nel weekend passato, lunghe attese, lunghi pomeriggi ad aspettare che arrivasse l'ultimo. L'ultimo ieri ad esempio è stato Daniel McLay, corridore inglese della Fortuneo che ha quasi attaccato, se vogliamo guardare la classifica della Lanterne Rouge. E quindi partiamo, vista questa lunga attesa tanto vale partire dal fondo e poi pian piano riscopriremo verso l'alto cosa ci ha detto il Tour de France negli ultimi giorni. Dal fondo della classifica dove c'è sempre più stabile l'irlandese Sam Bennett, Lanterne Rouge veramente quasi indiscutibile in questo Tour de France. Cosa ne pensi? Riccardo Spinelli, il nostro esperto di Lanterne Rouge. Ciao a tutti. Sam Bennett si consolida sempre di più in fondo alla classifica. Ieri abbiamo avuto un importante messaggio dal terz'ultimo, che è Howard, che è arrivato un minuto prima degli ultimi due, Lars Bak e appunto Sam Bennett, e quindi diciamo si chiama un po' fuori dalla sfida per la Lanterna Rossa. Sam Bennett invece consolida sempre di più, tra l'altro i suoi due Tour de France, perché l'anno scorso ha esordito al Tour, sono un po' sempre una discesa agli inferi, perché anche l'anno scorso l'ultima settimana ha abbandonato per un'infezione, ha iniziato a urinare sangue, quindi è stato costretto a lasciare il Tour. E quest'anno invece nei particolari stiamo sul rosso della lanterna. Esatto. Invece quest'anno è caduto alla prima tappa durante la volata e si è rotto un dito. Non scendiamo nei particolari. Ha detto che ha visto fuoriuscire un osso dalla sua mano. Vabbè, non parliamone più. E è costretto per questo infortunio della mano a frenare con due dita. E quindi diciamo che è un po' il nostro eroe. Dopo aver avuto Morkov, diciamo che è il nostro eroe del Tour, è lui. E direi che potrebbe non frenare a questo punto, vista la sua posizione in classifica. L'avrete sentito in sottofondo, c'è anche Leonardo Piccione, ovviamente. Ciao. Come sempre collegato con noi. Ciao. Buongiorno. Io a Leonardo gli butto lì subito un fatto, visto che lui è un grande esploratore di Twitter, e Leigh Howard, che è un uomo in classifica di questa contesa che è la Lanterne Rouge, ha twittato ieri prima della tappa, al profilo della tappa, dicendo: il menù di oggi fa schifo, preferivo i pancake. E a fine tappa, mi collego subito, perché proprio Leigh Howard a fine tappa ha twittato invece complimentandosi col suo compagno di squadra Gerlinson Pantano, che ha vinto alla grande, dicendo: sei una leggenda assoluta, non ho parole per descrivere quanto sono felice per la tua vittoria. Tanta gioia in casa Yam, la squadra che chiuderà a fine stagione. Parlavamo di attese, però forse... Parlavamo di attese perché, sperando che non ci senta Gianni Mura, meno male che c'è Twitter, perché sennò questo Tour de France nel weekend passato non è che ci abbia detto granché, almeno ci divertiamo a leggere i tweet dei corridori. Non so, voi come l'avete sfangato questo weekend di attese? Cosa avete fatto? Io dovevo studiare, per quello che abbiamo visto al Tour forse è più divertente studiare. No, non è vero. Ho guardato queste tappe, mi sono sforzato per non addormentarmi. Meno male che c'è sempre qualcuno che tira fuori dal cilindro qualche cosa di interessante, non so, alla Philippe che cade durante la crono e poi fa registrare la maggiore velocità in discesa il giorno dopo, 98 km orari, e meno male che ci sono questi personaggi, sennò sarebbe veramente una sonnolenza totale. Io invece devo ringraziare Rai Sport, perché io come ogni giorno mi sintonizzo all'inizio su Rai Sport 1 per seguire la tappa nelle fasi iniziali, poi loro ogni giorno ci chiedono di cambiare canale e passare su Rai 3 perché su Rai Sport 1 comincia la pallavolo. Io mezzo assonnato, mezzo addormentato tutti e due gli scorsi giorni, mi sono ritrovato a svegliarmi perché i pallavolisti facevano un po' di casino con i loro palloni schiacciando e mi sono reso conto che non era più il tour e ho dovuto cambiare e tornare su Rai 3 e risintonizzarmi sul tour, e così non mi sono perso i due arrivi e non mi sono perso soprattutto ieri il grandissimo Gerlison Pantano. Adesso parliamo di lui però, Sì, dovremmo parlare anche un attimo del perché ci sono queste lunghe attese, nel senso che, a parte che, scusatemi se faccio un uso personale del mezzo radiofonico, ma vorrei pregare Rai Sport di smettere di fare questi cambi di canale, perché io non prendo Rai 3 a casa mia, per cui devo passare dal divano allo streaming sul computer ed è una cosa veramente fastidiosa. Per cui state su Rai Sport 1, per favore. State su Rai Sport 1 e mostrateci soprattutto le coreografie, balle di fieno, campi di grano, che è ciò che ha dato il motivo di essere alle due tappe trascorse, anche se c'è un mistero che non so se ho ravvisato solo io, ovvero sono scomparsi i trattori. Sono coreografie con tutti i mezzi possibili, ma non più con i trattori. Allora, se qualcuno ha notizie dei trattori in Francia, per favore, ce le mandi a ciclismoliquido@gmail.com, perché siamo preoccupati. Già. L'altro grande mistero è perché nessuno combina niente in queste tappe. Non so se voi vi siete fatti un'idea. Io me ne sono fatte quattro, dalla più brutta alla più brutta, ve le elenco e ditemi voi cosa ne pensate. Una possibilità è che la Sky è troppo forte. Questa è una certezza, ma da capire quanto incide. Un'altra che credo incida molto è che tutti hanno paura delle giornate che aspettano, perché sono le Alpi e la cronoscalata, quattro giorni uno dietro l'altro in cui ce le si darà parecchio. Una terza sicuramente vera è che nessuno ha le gambe, e una quarta a mio parere abbastanza vera è che forse nessuno ha anche le palle, ovvero nessuno vuole rischiarsi un piazzamento che comunque porta sempre denaro e compiacimento in squadra. Sì, ormai sembra una corsa fatta per i piazzamenti, ovvero Chris Froome che domina un po', anche sembra un po' per usare un termine che veniva usato ai tempi, uno sceriffo, nel senso anche il rapporto con Porte, decide lui quando attaccare, glielo dice, è un po' Spavaldo, giustamente, anche perché nessuno si azzarda a togliergli la prima posizione, quindi è un tour un po' fermo. Sì, sull'atteggiamento di Froome in corsa poi magari faremo un approfondimento, perché ci sono un paio di cose da segnalare, tra cui appunto il rapporto con Aru. Ieri ci ha anche parlato un attimo in corsa, non sappiamo ancora cosa si sono detti, ma sarebbe interessante capirlo. Sulla finta che ha fatto anche ieri, ha fatto uno scatto, una finta di partire, ha fatto finta di partire per vedere se qualcuno fosse capace di reagire, e in realtà nessuno si è mosso alla sua ruota. Quindi sta un po' gestendo in un modo armstrongiano quasi la corsa, comunque ne parleremo a parte. Resta il fatto che è l'unico che ci ha fatto divertire finora, quindi questo gli va riconosciuto. Sugli altri è forse un po' vero tutto quello che ha detto Kautz, quelle quattro ragioni si mischiano un po' tra loro. Io credo che ieri, per esempio, Aru abbia avuto il coraggio di provare, ma effettivamente poi non ne avesse abbastanza per fare la differenza. Nessuno è stato capace di fare la differenza in salita in questo tour, questo è un dato di fatto fino a questo momento. Poi io mi riservo ancora di aspettare comunque la famosa ultima settimana che Nairo Quintana sbandiera. Era da mesi ormai, ha indicato quelle quattro tappe come il suo terreno ideale per attaccare, per ribaltare il Tour de France. Ha detto che non è ancora chiuso, ci crede, e io mi riservo un giudizio finale a sabato sera. Senti, mentre Nairo Quintana sbandiera e per ora si limita a sbandierare, in Colombia credo che stiano sbandierando per qualcun altro. Anche il presidente colombiano ieri ha alzato il telefono per fare i complimenti a Gerlison Pantano dopo la sua vittoria di tappa. Sì, abbiamo credo un audio da parte della televisione colombiana, che era a casa di Pantano, se non sbaglio, giusto? Abbiamo sì un frammento della telecronaca dell'arrivo alla tappa di ieri, che peraltro è una telecronaca che ha una delle due voci, è Goga Ruiz Sandoval, che è una persona che io ho avuto la fortuna di conoscere al Giro delle Fiandre di quest'anno, e raramente ho visto persone così coinvolte, così appassionate nel ciclismo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Lo sentiamo, il video si conclude con le immagini di casa Pantano che festeggia, poi vi mettiamo il link, perché commentare un video in radio non ha veramente senso. Ascoltiamolo. Falta de diálogo, quedan apenas 500 metros para rematar. Ahí es. El Valle Caucano no se lanza todavía. Él lo estudia, analiza, lo va a sorprender Ramaca desde la parte posterior. El más grande, más cuajado, el de Colombia, tiene más potencia en las piernas. Le la dupla. ¡Vámonos, Colombia, que tienes todo para va a ganar. Rafa Almaca va y ahí está muy bien la posición. Vamos, Carlinson, por detrás, Carlinson Betano. Colombia, Colombia va a ganar. Vamos, Carlinson, país, país. Le da, pantanoludo. Muy bien, el colombiano se lo llevó. Por la calle de Banco Ibrea, lo decíamos. Y cuajó el melao. Se tragó el marcar blanco completico. Ahí celebra la casa de Pantano. En la casa, es que felicidades a la familia de Carlinson Pantano. Es una alegría y un llanto que vamos a compartir con ustedes. Carlinson Pantano inscribe su nombre en el Tour de Francia. Felicidades, Pais, te lo mereces porque eres un hombre de muchos pantalones. Carlinson Pantano, che non abbiamo ancora detto che è il ciclista che è arrivato ad Andorra Arcalis con l'ombrello, che è diventata la nostra immagine di copertina dell'account Facebook, immagine che ha fatto il giro del mondo e tra l'altro tutti i tifosi colombiani adesso usano l'ombrello come, diciamo, per tifare Pantano, e lui ha ringraziato su Twitter con un tweet il tifoso che gli ha scambiato i guanti con l'ombrello. E a proposito di tweet, Leonardo ne ha trovato un interessante ho trovato un tweet di Ilnur Zakarin che ci spiega perché ieri si è attardato durante la discesa. Ieri faceva parte della fuga e noi tutti pensavamo che si fosse attardato per via della paura della discesa dopo la caduta terribile dal Colle dell'Agnello al Giro d'Italia. Invece non è così, lui ha scritto che durante la discesa ha perso le sue lenti a contatto e ha provato a rimettersele due volte, ma la corsa era nel vivo, ormai non c'è riuscito e ha concluso con un ci tenevo un po' triste alla fine. In fuga c'era anche Nibali, però due parole su di lui, Kautz. Sì, in fuga c'era anche Nibali. Tornando un attimo alle lenti a contatto, scusami, a questo punto nella tappa di ieri abbiamo visto uno perdere le lenti a contatto e uno perdere gli occhiali, ovvero Bardet. Romain Bardet, sì, è un record pilotici al Tour de France. Ha guardato la moto come per dire raccoglimi gli occhiali, ma doveva fare altro la moto. Chi ci vede abbastanza bene, ma forse non va con la stessa prontezza, è Vincenzo Nibali, che ha lavorato tanto per portare via la fuga, ci è entrato e poi si è sfilato abbastanza così malinconicamente. Fatto sta che al traguardo ha trovato una buona notizia, ovvero quello che tutti già sapevamo, ovvero la sua convocazione e leadership per la nazionale italiana verso le Olimpiadi di Rio. Una tornata di convocazioni che ha avuto degli aspetti che la stampa incomprensibilmente sta nascondendo, ma ci risvela il nostro Francesco Bozzi. Ah, finalmente è tornato. Ben ritrovati all'appuntamento con l'invadente, che oggi si occuperà di questioni extra tour, vista la relativa tranquillità con cui il gruppo ha trascorso i chilometri di ieri. Sono arrivate le convocazioni del CT Cassani per la gara in linea di Rio, dove ci saranno Caruso, c'è Diego Rosa, c'è Aru, c'è Nibali, c'è De Marchi e non ci sono Visconti e Diego Ulissi, che pare non l'abbiano presa proprio benissimo queste esclusioni. Visconti, che è stato escluso proprio in favore di De Marchi, sta già depositando le pratiche alla Valletta per diventare ufficialmente un corridore di Malta e quindi partecipare alle Olimpiadi, però con la casacca bianco-rossa dei maltesi, per l'appunto, e correrà ovviamente contro la nazionale italiana. Discorso molto simile per Diego Ulissi, che da buon toscano non ha preso pacatamente questa esclusione, e al che Malta era già occupata da Visconti e ha dovuto ripiegare su San Marino, che però a quanto ci risulta non è sicuro possa partecipare alle Olimpiadi. Ultima possibilità per Ulissi, lo Stato del Vaticano, che però richiederebbe a Ulissi di smettere di invocare il cielo con termini poco ortodossi durante la corsa. Quindi vediamo se la toscanità di Ulissi farà i conti con le questioni religiose dello Stato Vaticano. Vedremo. Comunque, in bocca al lupo, che siate maltesi, vaticanesi, sammarinesi o italiani. Ci vediamo a Rio. Questo era il nostro invadente Francesco Bozzi, che ci dà sempre notizie di seconda, terza o quarta mano, ma comunque interessantissime. Questa è clamorosa, eh? Questa qui questa è proprio clamorosa. In realtà ha un precedente, che è Rebellin, che aveva chiesto la nazionalità argentina. È vero. Verona di anni fa. Come non successe allora, non succederà neanche questa volta, perché le notizie che ci dà Francesco Bozzi si riveleranno sempre fasulle, vogliamo dirlo, visto che non c'è qui con noi. Fatto sta che se ci fossero stati Ulissi e Visconti, secondo me la tappa che ci aspetta oggi pomeriggio l'avrebbero provata, non dico che avrebbero ottenuto un risultato, però insomma si va a Berna, secondo sconfinamento del Tour de France, è una tappa che molto probabilmente sorriderà ai velocisti, anche se c'è un GPM all'inizio e beh, non è lunghissimo, e poi c'è un percorso abbastanza tortuoso. In realtà la tappa di oggi è veramente un carosello, perché arriva a casa di Fabian Cancellara nel suo ultimo Tour de France e penso che sarà una celebrazione. E c'è anche un piccolo tratto in pavé prima dell'arrivo, prima del possibile sprint o arrivo di gruppo, quindi sembra proprio una tappa disegnata per un 35enne di Berna a fine carriera, bravo sul pavé. Non so quanti ce ne sono in gruppo a parte Fabian Cancellara. Probabilmente a Berna hanno costruito i settori di pavé negli ultimi anni come tributo a Tara, immagino. Probabile. Forse dopo il ritiro avrà un assessorato all'urbanistica, potrebbe pensare questo futuro. Oltre a lui, se non arrivasse la fuga, chi ci potremmo mettere dentro? Il solito Sagan? Forse Van Avermaet? Ma io credo che arriverà una volata invece vera e propria. Dici? Ma sì. Cioè, vediamo un po' cosa succede. Sicuramente il finale non è facilissimo, però cioè, per come sta andando il gruppo fin qua, insomma, non mi stupirei se finisse con una volata fatta e finita. E io invece proprio per questo dico che secondo me arriva la fuga. E in fuga ci sarà ovviamente Albasini domani, anche lui si arriva in Svizzera e secondo me è tra i favoriti. Bene, non ci resta che godercela questa tappa, dimenticare abbastanza velocemente un weekend di Tour de France che ci ha dato abbastanza poche emozioni. Se posso metterci una questione personale tra virgolette, il weekend in cui è anche morto Alan Vega, fondatore e colonna dei Suicide, a cui insomma do il mio saluto e speriamo che il suo spirito creativo e casinista illumini i protagonisti del Tour de France nelle tappe che restano. E cosa ci resta? Ci restano ringraziamenti. Ringraziamo Riccardo, che ha interrotto i suoi studi per essere qui con noi a chiacchierare anche oggi. Grazie a voi. Ringraziamo Angelo Trofa, che ha introdotto la prima puntata di Radio Bidon dell'ultima settimana del tour. E ringraziamo anche il cialtrone che è Francesco Bozzi, però gli vogliamo bene, quindi ringraziamo anche lui. E adesso il momento finale attesissimo, come sempre. Vai Dino, ciao a tutti, buon ciao. Tour. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia a pois, poi chi vince il Tour nella storia entrerà. Olè!